Troia vuole che la cerco. Ho tempo solo per la gang. Ho droga solo per la gang. Alzo soldi solo per la gang. Giuro a Roma non c'è nessun altro. Ho tempo solo per la gang. Rischio bene, vendo droga solo per la gang. Di PG 777, Dark Gang 777, siamo una famiglia. Sangue gang, sgocciolo come una siringa. Fanta sparca, fango, non capiregna. Non mi conosci e non mi capirai mai. Ho gli occhi rossi e neri come il Milan. Ma sono di Roma come Thomas Millian. Posso scopare tua madre e tua figlia. La cosa non mi interessa, non mi sconfinfera. Penso ai soldi ad alzarne una pila. Da quando esisteva la lira, la luce negli occhi come una pila. Messa in faccia ad un blocco di polizia. Fa culo alla polizia, riposa in pace Stefano e tutti gli altri. Esiste soltanto la gang, fanculo a tutti gli altri. Solo la gang fanculo a tutti gli altri. Vero stronzo di strada, lascio soldi ai mendicanti. Porto busta e le vecchie su per le scale di casa. Danno busta ai vecchi tossici in piazza. Serve un camo nella giungla, fanculo la tua big falsa. Fanculo la tua ragazza, tutta quanta quella merda a cui credi è falsa. Guarda come bruciamo tutto quanto, tipo una colata di lava, tro. Troia vuole che la cerco. Ho tempo solo per la gang. Ho droga solo per la gang. Alzo soldi solo per la gang. Giuro a Roma non c'è nessun altro. Ho tempo solo per la gang. Rischio bene, vendo droga solo per la gang. DPG777. Sì, siamo nella gang DPG, baby gang. Veloci come Matra, in strada come Chevrolet. Aspetto che ti sposi per scoperti la moglie e vedere la tua faccia quando esce un bimbo nero. Ridiamo 13 coltellate in pancia come Lady di Marzo. Gang, ma non voglio il mio cazzo con quello di un altro. Volevo fare il cacciatore, fanculo sta merda gang. Piccoli geni in laboratorio come Dexter. È un vero boss, non chiama boss, nessuno boss pare. Se arriva la gang, treni insurrare. Non ti fa soldi, proprio come Trastevere. Il diavolo veste Gucci, che non mi vedi. Non parlare del mio rione, perché non è insegnante. In tasca, tre posti grassi come bomboniere. Fotti la gang e sparisci come un fantasma. Faccio un bal di vanilla, faccio trattere e c'ho l'asma. Come ti permetti di parlare così a tuo padre? Lavoro di d'ore, il tuo posto è tra le fogne. Troia mi sta cercando, cercasse qualcuno che le dà il cazzo. Non amo lei, amo sto denaro di PC. Siamo piccoli depisti, Roma centro biscaletti d'Arsan in fissa. E non faccio la fila, io non faccio la spia. Toro nero Lamborghini, non mi scende mai speedball. Troia vuole che la cerco. Ho tempo solo per la gang. Ho droga solo per la gang. Alzo soldi solo per la gang. Giuro a Roma non c'è nessun altro. Ho tempo solo per la gang. Rischio bene, vendo droga solo per la gang. DPG777.